Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuti a una nuova puntata di Curiosità Animate, dove vi parlerò dei classici Disney. Oggi parliamo del nono classico Disney, ovvero Bongo e i tre avventurieri. Questo film è stato distribuito nel 1947, benché fosse stato realizzato in realtà molto prima. Infatti di questo periodo e film simili come quelli di cui abbiamo parlato precedentemente sono tutti stati realizzati con questa tecnica di fare diversi segmenti, ovvero di aggiungere diversi spezzoni e diversi episodi ai film. Questo perché, come avevamo già detto, durante la Seconda Guerra Mondiale il personale della Disney è stato di molto dimezzato e quindi non c'era la possibilità di fare delle trame molto lunghe. E quindi decidevano di prendere diversi episodi e di unirli appunto per creare dei film. In questo caso il film è composto da due episodi diversi e sono molto molto diversi. Infatti il primo è Bongo, che parla di un orsacchiotto che si trova all'interno di un circo ma vorrebbe trovare la libertà, mentre il secondo, intitolato in italiano Topolino e il fagiolo magico, vede come protagonisti Topolino, Pippo e Paperino all'interno della famosa fiaba del fagiolo magico. Quindi, come potete vedere, sono proprio due aspetti completamente diversi. In realtà questi due segmenti erano stati pensati come film individuali. Bongo era stato addirittura pensato come prequel per Dumbo, perché è ambientato sempre nel circo. Però a causa proprio di questi tagli al personale, degli scioperi che sono accaduti, eccetera, questi film non potevano essere rilasciati singolarmente perché erano stati apportati moltissimi tagli ad essi. Quindi Disney, pur di rilasciare qualcosa nel periodo post-guerra o comunque durante, ha deciso di accorparli in un unico film, ricevendo sì un discreto successo, però non come i film con una trama molto più consistente che poi verranno realizzati dopo. Quindi questi lungometraggi possono essere considerati dei filler per gli studios, come anche i primi due o tre lungometraggi di cui abbiamo parlato nelle puntate scorse o più recenti. Quindi diciamo che negli anni subito successivi alla guerra i film che verranno rilasciati saranno appunto questi tipi di film filler o comunque che gli studios aveva rilasciato proprio per non perdere la cadenza di realizzazione o comunque dell'animazione. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo in una prossima puntata di Curiosità Animate.